Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e buona giornata a tutti. Ieri è stata la giornata in cui i mercati hanno testato la manovra approvata a tempo record venerdì scorso. Ieri bocciatura, oggi ci si ripensa, il mercato va bene, poi vi darò i dettagli di questa seduta sulla borsa italiana ma anche sugli altri mercati finanziari europei. Contestualmente molte delle misure previste, essendo contenute in un decreto legge, sono diventate immediatamente operative. Fra queste è partito il pagamento del ticket sanitario contenuto appunto nel decreto legge 98, 10 euro per le visite specialistiche e 25 euro per i codici bianchi di pronto soccorso, una situazione che però è stata applicata in ordine davvero sparso in tutta Italia. Avrete avuto modo di leggere sui giornali in questi giorni e di sentire anche nei nostri giornali radio, alcune regioni si sono opposte vigorosamente alla misura. C'è una mappa, anzi piuttosto dettagliata, sul Sole 24 Ore di questa mattina di quella che è in questo momento la situazione in Italia. Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta hanno deciso appunto di non applicare al momento i nuovi, così chiamiamoli, balzelli. Un altro bel gruppo di regioni invece ha fatto sapere che procederà con l'applicazione, con la messa a regime, che però sta procedendo a rilento. Addirittura si è appreso, per esempio stamattina l'abbiamo letto in alcuni siti, in alcuni giornali, che in Piemonte alcuni poliambulatori hanno già fatto pagare i nuovi ticket, ma siccome la regione Piemonte non intende, credo, o ancora deve ancora decidere cosa fare, al momento è stato congelato appunto il nuovo balzello. Queste strutture sanitarie hanno fatto sapere che per esempio lo restituiranno. Insomma, non sembra esserci alcuna possibilità su una marcia indietro rispetto alla misura. Anche i sindacati sono critici, ma in realtà c'è appunto una situazione molto eterogenea. Dunque, cosa sta succedendo sul territorio, anche tra le regioni che ancora devono meditare su come applicare quello che in gergo chiamano la compartecipazione a questa nuova spesa sanitaria da parte dei cittadini? Pare che alcune ASL appunto abbiano già fatto pagare il balzello, e poi non tutte è detto che facciano come quello che è successo in Piemonte, che hanno deciso appunto di rimborsarlo. Una grande confusione sul territorio. Noi stamattina cercheremo di fare un punto della situazione, anche se poi novità arriveranno sicuramente nei prossimi giorni. Intanto con il nostro Roberto Turno, collega del Sole 24 Ore, che è l'uomo specialista della tematica sanitaria. Roberto, buongiorno e grazie di essere a Salva Danaio. Buona giornata. Ciao, dai, buona giornata a te e ai tuoi ascoltatori. E poi siamo in collegamento anche con Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato. Dottoressa Moccia, buongiorno e grazie di essere intervenuta a Salva Danaio. Buongiorno e grazie a voi. Allora, naturalmente microfoni aperti alle vostre testimonianze. 800 24 00 24 per chiamarci, per intervenire in diretta, oppure scriveteci alle 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Tra l'altro oggi noi abbiamo monitorato un po' più attentamente la situazione lombarda. Stando qua abbiamo letto per esempio dalla cronaca di Milano del Corriere della Sera questa mattina: la quarta ricetta dopo aver già pagato la maggiorazione di 10 euro per altri 3 esami, l'ha stracciata davanti al medico, pagatevela voi, niente visita. Questo è successo all'ospedale Sacco, il primo giorno del ticket da 10 euro. Sugli esami specialistici si chiude con più di una lamentela, e così più o meno in tutte le strutture sanitarie, dal Niguarda al Policlinico, passando per il San Paolo e fate bene fratelli. Noi adesso vi riepiloghiamo un po' la questione nella nostra scheda e sentiremo anche la testimonianza, le dichiarazioni che ci ha rilasciato questa mattina il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Intanto la borsa, prima di partire a tamburo battente con il tema scelto oggi, continueremo anche nei prossimi giorni ad esaminare gli aspetti che vi interessano di più della manovra correttiva dei conti pubblici. Vi preannuncio già che domani torneremo su un tema che vi ha interessato moltissimo negli ultimi giorni, e cioè di nuovo sulla rimodulazione della nuova imposta, la rimodulazione dell'imposta di bollo sui conti titoli. La borsa questa mattina, ieri lunedì nero, un nuovo lunedì nero per i mercati europei, è andata male anche Wall Street. Stamattina si è svegliata di malumore anche Tokyo, che ha perso lo 0,85%. Invece ci sono delle belle prove tecniche di riscatto per i listini europei, che segnano un rialzo superiore al punto percentuale ovunque, con l'unica eccezione di Londra, che ha più 0,47%. Parigi più 1,29%, a Parigi vanno benino i titoli del settore del lusso dopo i risultati di Hermès. Francoforte più 1,53%, anche se qua è stato divulgato l'indice ZEV che mi duccia, che stamattina mi sto incespicando troppo, sarà colpa del meteo. L'indice ZEV che misura la fiducia degli investitori tedeschi a luglio è crollato ai minimi di gennaio 2009, la borsa tedesca però se ne disinteressa e segna un più nel 53%. Dicevo Londra più 0,46, Milano mette a segno per fortuna il riscatto più consistente delle altre piazze, ieri comunque è stata protagonista della seduta. In termini negativi il FTSE MIB ha perso il 3,06%, oggi più 2,30% sul principale paniere di Piazza Affari, e stanno recuperando praticamente quasi tutto il terreno perso ieri i titoli bancari. Intesa San Paolo e Unicredit ieri hanno perso circa il 6%, oggi recuperano il 5% e il 4,32% rispettivamente, bene anche il Banco Popolare, più 4%, è stata la banca che peraltro ha avuto, come dire, il risultato meno soddisfacente degli stress test sulle banche italiane, però oggi ha più 4% in borsa. Azimut più 3,94, Generali più 3,82, Monte dei Paschi più 3,61, Impregilo più 3,60, Ubibanca più 3,60, più 3,33 per Mediolanum, va bene la Galassia Fiat, Prismian più 2,82, Atlantia più 2,70. Chi invece oggi va male è Pirelli, che perde un sonoro 2,51%, il gruppo ha ricevuto un giudizio negativo da parte di una casa di investimento, Bank of America Merrill Lynch. Abbiamo un calo di Parmalat di nuovo dello 0,55%, ormai un'emorragia senza fine, Lottomatica meno 0,3, e qua si sono esauriti i titoli con il segno meno, che questa mattina appunto sono pochi per fortuna. Più tranquillo anche il mercato obbligazionario, sui titoli di Stato si è allentata la tensione fra BTP e Bund, siamo di nuovo al di sotto come tasso di rendimento del 6%, intorno al 5,80. Questa mattina ci sono state anche delle corpose aste spagnole, c'è stata un'emissione da 4 miliardi e mezzo di titoli a 12 e 18 mesi, le aste sono riuscite ma sono dovuti appunto salire, sono saliti i rendimenti, i titoli a 12 mesi hanno chiesto al mercato il 3,70%, quelli a 18 mesi il 3,91%, per cui per quello che riguarda appunto la Spagna c'è ancora un po' di tensione. Direi che però possiamo lasciare il mercato, andare subito al tema di questa mattina. Allora, è partito il nuovo ticket sanitario su visite specialistiche. Sentiamo un po' qual è la situazione in Italia in questo momento. Tra le tante questioni poste sotto i riflettori dalla nuova manovra economica, a contendersi il primato della più discussa c'è senz'altro l'introduzione del cosiddetto super ticket. Il balzello di 10 euro, previsto per le prestazioni sanitarie specialistiche, potrebbe farsi sentire già da questa settimana, direttamente nelle tasche di tutti gli italiani che hanno prenotato una visita presso un'azienda ospedaliera pubblica. Non si sono fatte aspettare le reazioni, tutt'altro che tenere, di molti presidenti di regione, che si sono schierati contro la norma, definita una vera e propria stangata per la sanità pubblica, andando a comporre un fronte trasversale ai colori politici. Ai governatori resta l'autonomia di scelta e la possibilità di optare per soluzioni alternative. Compensare con le proprie risorse o spalmare e rimodulare il taglio con altri mini ticket definiti in base a criteri diversi. Ed è per questo che nelle ultime ore si sono rincorse le notizie sulle decisioni dell'una e dell'altra amministrazione, alimentando un senso di confusione generale complicato dal fatto che, dove applicato, il pagamento del temuto balzello dovrebbe essere già richiesto. E i cittadini come reagiranno? In che misura l'introduzione di una nuova tassa li spingerà ad allontanarsi dal Servizio Sanitario Nazionale? Sebbene alcune fasce restino esenti dal pagamento, come ad esempio i bambini sotto i 6 anni e gli over 65, le associazioni dei consumatori manifestano tutta la propria contrarietà e parlano di un utilizzo selvaggio dei ticket, che colpirà, in particolare, le categorie più deboli, che non avrebbero la possibilità economica di far riferimento al privato. Vi faccio sentire quello che ci ha dichiarato questa mattina, anzi lo ha dichiarato ai microfoni del nostro Alessandro Milan, il governatore della regione Lombardia Roberto Forbigoni, che ha ribadito la sua totale contrarietà all'aumento dei ticket, ma in Lombardia probabilmente si andrà su questa strada. Sentiamo. Ho dopo Scilla, facciamo pagare il ticket ai cittadini, o Cariddi, togliamo ai cittadini altri servizi e non gli facciamo pagare il ticket, perché la situazione è così, ma questa non è solo per la Lombardia, anche per le altre regioni. Ma siamo più a Scilla o a Cariddi? Non lo facciamo pagare, deve togliere ai cittadini altri servizi, quindi stiamo valutando che cosa sia meno doloroso fare. Credo domani si sarà deciso, cioè siamo più tra Scilla, più verso i cittadini o più verso... Guardi, ho convocato i miei tecnici per oggi pomeriggio, mi porteranno tutte le valutazioni, tutte le soluzioni possibili, poi domattina abbiamo la giunta e prenderemo la decisione. Ma lei piace questo ticket? No, perché... assolutamente no, guardi, io ho fatto una battaglia durissima nel 2007 quando è stato inserito dal governo precedente, abbiamo anche fatto ricorso alla Corte Costituzionale, la quale ci ha dato torto, ha detto che il governo può inserire il ticket, allora il governo Prodi allora ebbe ragione di fronte alla Corte Costituzionale a inserire il ticket, poi la battaglia delle regioni fece sì che il governo successivo togliesse il ticket, oggi lo hanno reintrodotto, è chiaro che costituzionale era, quindi costituzionale rimane, si tratta di qualche cosa che a mio giudizio non va bene, teniamo conto tuttavia che in Lombardia chi paga il ticket è circa il 30% delle persone, quelli con i redditi alti, sono esenti fra l'altro gli under 14 e gli over 65, insomma, tutti i tipi. I redditi alti però di fatto, quando poi questi balzelli arrivano, e c'è qualche ascoltatore che mi contesta anche l'utilizzo del termine balzello, sembrano comunque impopolari. Quando si, come dire, ha a che fare con le questioni legate alla salute, non è che uno si diverte ad andare a fare visite specialistiche piuttosto che a fare appunto esami approfonditi per la propria salute, di conseguenza sembra sempre tutto un po' iniquo, improprio. Roberto Turno, ancora buongiorno. Allora, abbiamo sentito, la Lombardia si deve decidere oggi, però di fatto già ieri appunto le strutture sanitarie pubbliche hanno fatto pagare questi 10 euro aggiuntivi, e la situazione però rimane ancora estremamente eterogenea. Peraltro sentivi, no, del caso anche del Piemonte, per il quale c'è molta confusione, molte strutture lo hanno fatto pagare, adesso addirittura fanno marcia indietro, lo restituiranno. Qual è la situazione che tu hai trovato ieri pomeriggio nella tua indagine condotta per il Sole 24 Ore? Ecco Debora, tu hai parlato di regioni che sono andate in ordine sparso, noi l'abbiamo scritto sul quotidiano ticket e super pasticci, direi che quella di ieri, temo ancora per alcuni giorni, sarà ricordato come una specie di nuovo lunedì nero per la sanità italiana, lunedì nero sia per il disordine, per la confusione sull'applicabilità o meno, sulle scelte politiche che devono essere fatte, e anche per la mancata uniformità da un capo all'altro d'Italia. Ieri si è pagato, ma come dire, a singhiozzo in Lombardia, nel Lazio, in Liguria, in Puglia, in Basilicata. In Lombardia, come spiegavi molto bene tu, ci risulta perché è accaduto che in ampie aree della regione non si è pagato, magari in un'altra sì, in un'altra no, così negli ospedali. In Sicilia, ad esempio, dove per il momento, pur essendo la regione sotto piano di rientro, il governatore ha deciso di prendere qualche giorno di tempo, se gli sarà concesso dall'economia poi. Certo, diciamo che per lui sarebbe una grande manna per la Sicilia, però chiaramente non può, come dire, procedere in maniera così dirompente fra i cittadini, perlomeno ha deciso così. Certo, perché noi fra le regioni sotto piano di rientro, quelle dove è scattato, c'è soltanto il Lazio, la Puglia, tutte le altre no, anche se dovrebbero farlo automaticamente. Ecco, per esempio in Sicilia, dove è stato bloccato, che è capitato? È capitato che ci risulta che in diverse strutture non accreditate si è chiesto comunque di pagare con questo ticket, cioè insomma nella situazione di una confusione estrema. Infatti, anche perché tra l'altro le ASL, Roberto, mi chiedo che tipo di comunicazione c'è, nel senso possono procedere autonomamente senza ricevere alcuna, non lo so, circolare da parte delle regioni, quindi non aspettano neanche un documento formale da parte dell'ente locale per procedere con l'applicazione della misura? Tocchi un nervo scoperto proprio, perché non tutte le regioni, anzi poche, hanno comunicato alle ASL sospendi o applica. E quindi, come dire, è stato tutto affidato nelle mani dei direttori generali, certi per paura di un intervento a posteriori della Corte dei Conti per mancata riscossione, quindi il rischio del danno erariale, sono partiti da soli, come Lombardia, come da altre parti. Questo certo non depone bene, per un verso nei confronti delle regioni che peraltro non avevano neanche i sistemi di riscossione automatizzati pronti, certo. Non tutti. Sempre in Lombardia è accaduto che come ricevuta è stato dato un pezzetto di carta con firma autografa. Quindi qualora addirittura paradossalmente la Lombardia facesse marcia indietro riconoscendo ai cittadini appunto il diritto al rimborso, chissà anche se farà fede questo documento. Esatto. Roberto, allora chiedo un attimo, tra l'altro già tra 30 secondi devo andare in pausa, chiedo però una battuta a Francesca Amoccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, e vedo già anche numerosissimi ascoltatori che vogliono raccontarci la loro esperienza di ieri, chiederci delucidazioni sulla misura. Dottoressa Amoccia, insomma, qual è la vostra percezione rispetto a tutto quello che sta accadendo, di quale tipo di chiarezza c'è tra di che bisogno di chiarezza c'è tra i cittadini, fra gli utenti del Servizio Sanitario Nazionale? Noi abbiamo detto sin dall'inizio no ai ticket, perché riteniamo per principio che sia una misura iniqua e che sostanzialmente ricade sulle persone che hanno un problema di salute, per questo che lo combattiamo da sempre. Quindi anche di fronte a questa manovra, a questa misura, lo abbiamo ribadito, chiaramente non è bastato, perché anche se lo hanno detto in tanti, si è fatto lo stesso. Ora il problema è che c'è questa lotta tra Stato e Regioni in qualche modo, di cui vediamo un po' le conseguenze, no? Questa confusione nasce dal fatto che c'è un po' questa contrapposizione, e quindi adesso però chi ne fa le spese sono i cittadini, e molti poi si rivolgeranno a noi, che storicamente cerchiamo di orientarli quando si hanno anche delle difficoltà, richieste di informazioni, quindi ci stiamo già attrezzando per poter rispondere. Eccoci ritrovati in diretta. Allora oggi ricominciamo a parlare delle norme previste dalla nuova manovra economica e a quelle soprattutto che hanno un'immediata applicazione ad essere operative già in questi giorni. Fra le tante questioni sotto i riflettori e anche al centro delle polemiche c'è l'introduzione di un ticket da 10 euro previsto per le prestazioni sanitarie specialistiche. È già stato nominato questo balzello super ticket, e poi c'è anche l'altra nuovo ticket, quello da 25 euro per i cosiddetti codici bianchi di pronto soccorso. Adesso, per chi non lo sapesse, spiegheremo anche di che cosa si tratta. Le regioni sono state un po' in difficoltà a far passare ovviamente questo nuovo super ticket. Le regioni che sono alle prese con il cosiddetto piano di rientro sanitario lo hanno dovuto applicare immediatamente, fra queste il Lazio e altre regioni appunto in difficoltà. Altre ancora invece cercano di capire come non far gravare questa novità sui cittadini, perché come sapete ovviamente quando, anche se poi chiaramente non viene questa misura applicata su tutti quanti i redditi, è chiaro che quando si parla di problematiche legate in qualche maniera alla salute tutto viene considerato un po' iniquo, no? Lo dicevamo all'inizio. Con noi questa mattina per discutere della situazione allo stato attuale, in attesa che molte regioni prendano una loro decisione, come farà per esempio la regione Lombardia nel pomeriggio, c'è questo incontro di cui ci ha raccontato prima il governatore Roberto Formigoni, cerchiamo di capire qual è la situazione al momento attuale, verso quale strada intendono procedere appunto le regioni che più o meno hanno già un indirizzo da prendere. Con noi stamattina il collega del Sole 24 Ore Roberto Turno, che ha scritto stamattina una mappa molto dettagliata della situazione italiana in questo momento, e la coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato Francesca Moccia. Vorrei sentire subito alcuni ascoltatori per poi appunto commentare con i nostri ospiti le vostre considerazioni. Giancarla da Verona, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io avrei una curiosità che spero voi mi possiate soddisfare. Noi qui in Veneto paghiamo già un ticket che arriva anche fino a un massimo di 36 euro, dipende dalla prestazione. Dalla visita, certo. Ecco, adesso si sente parlare di questo ticket su visite sanitarie, a volte si parla di ticket aggiuntivo. Ecco, io volevo capire, questi 10 euro si aggiungono agli altri? Poi un'altra cosa, pagano già tutte le regioni gli stessi ticket o ci sono regioni che pagano poco, regioni che pagano niente? Ecco, vorrei avere chiaro un po' questa cosa. Questa situazione, cosa succede in tutta Italia? Dottoressa Moccia ci chiede un vero e proprio trattato, la nostra ascoltatrice di Verona, ma vediamo appunto entro quali termini possiamo accontentarla. Lei dice già, per quello che conosco io su certe prestazioni specialistiche paghiamo già in Veneto 36 euro, adesso in che modo viene applicato questo ulteriore super ticket di 10 euro? E da quello che ho capito c'è una chiara distinzione anche reddituale, perché molti ascoltatori esenti dai ticket sanitari per l'appunto ritengono addirittura adesso di poter essere in qualche maniera toccati anche dalla misura. I regimi di esenzioni rimangono però inalterati, se non ho capito, dottoressa Moccia. Sì, allora innanzitutto provo a dare una risposta. Sì. La situazione è variegata, ma partiamo da una situazione in cui in tutte le regioni c'è già un importo massimo per ricetta di 36,15 euro, quindi è giusto quello che dice la signora. In alcune regioni addirittura la somma è più elevata, ad esempio in Calabria già si paga 46 euro, già si pagano 46 euro, o piuttosto in Sardegna la stessa cifra, quindi già 10 euro in più, ecco, quindi i ticket saranno aggiuntivi e la somma diventerà da 36 a 46, laddove 36, laddove 46 dovrebbe essere 56, però ecco, le regioni stanno decidendo proprio come applicarlo, quindi su questo noi non possiamo adesso prevedere esattamente quello che accadrà. Partiamo però dallo stato della situazione. Ad oggi esistono già dei ticket sulle prestazioni specialistiche in tutte le regioni, con questo importo massimo per ricetta che è appunto di circa 36 euro, il ticket si andrà quindi ad aggiungere e questo è quanto. Nelle regioni in cui ci sono piani di rientro chiaramente i ticket erano già più elevati perché c'era una situazione di sofferenza di base, di debito in qualche modo da colmare, quindi è altamente prevedibile, come infatti hanno già dichiarato, che i ticket li applicheranno e come. Allora, invece mi stavo chiedendo, sempre per così fare un po' di chiarezza fra gli ascoltatori che ovviamente non sono abituati ad utilizzare questa terminologia sanitaria, che cos'è il codice bianco di pronto soccorso, dottoressa Moccia? Sì, io non sono un medico, no, proverò certo a dirgli in modo che si possa comprendere. Però ecco, quando si fa il triage, cioè in pratica si fa un'analisi della gravità del caso quando si arriva in pronto soccorso, alle persone viene attribuito un codice di gravità, che è in pratica l'ordine di priorità con la quale si interviene sulle persone. Il codice bianco corrisponde ad una gravità, ad un'assenza di gravità, mentre il codice rosso, al contrario, è il caso più grave in assoluto. Certo, che ha l'assoluta precedenza nelle aule, esatto, nelle stanze di pronto soccorso. E quindi c'è, serve a questo, il codice bianco è nella sostanza il classico caso in cui spesso si dice la prestazione è inappropriata, cioè che vuol dire? Vuol dire che una persona è andata al pronto soccorso ma quella stessa prestazione avrebbe dovuto richiederla altrove, magari al medico di famiglia piuttosto che sul territorio. Una sorta di deterrente ad abusare, esatto, del pronto soccorso in qualche maniera, vediamola così. 800 24 00 24, numero verde ancora per le vostre domande. Molti ascoltatori giustamente fanno delle osservazioni corrette anche a proposito del momento in cui l'applicazione del ticket cade e il momento in cui è stata fatta magari la prenotazione di una determinata visita. Roberto, io per esempio so che questa cosa, adesso non mi ricordo se l'hai segnalata anche tu sul Sole 24 Ore, oggi pomeriggio ho un'ecografia da fare, però la mia visita l'ho prenotata già da tempo, a parte che vado in una struttura privata qua vicino e non credo di dover pagare il super ticket, però effettivamente per chi ha già fatto la prenotazione qualche tempo fa e adesso deve andare appunto ad eseguire la prestazione si ritrova il super ticket, anche questo non è esattamente corretto, però potrebbe trovarsi anche questa sorpresa. Ma Debora, io forse per me non ti fare pagare, questo è sicuro. Quindi io credo che siamo in uno dei tanti casi limite che si presenteranno, dove farà dell'importante il buon senso di chi amministra, di chi gestisce. Non c'è niente di scritto a questo proposito. E questo è uno degli altri aspetti che è responsabilità della manovra. Perché? al di là del decidere di addossare sulle regioni per questo scorso di anno i 381 milioni di incasso presunto per i super ticket, che poi nel 2012 diventeranno 835 milioni di circa. Quindi al di là del deciderlo, forse sarebbe stato più opportuno dare due settimane in più di tempo, di modo che tutte le regioni si organizzavano da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista delle circolari, dei chiarimenti e anche delle decisioni politiche da prendere. Quindi certo, siamo proprio nella terra di nessuno. Diciamo che certo, però insomma abbiamo già capito, anche valutando le altre misure contenute nella manovra correttiva, abbiamo già capito che lo Stato in questo momento ha bisogno di far cassa e ha, come dire, spalmato gli interventi rapidissimi ovunque, anche perché ritengo che se fosse partito un confronto con i governatori delle regioni, effettivamente forse la misura non avrebbe potuto essere, come dire, applicata in maniera immediata, anche se compresa appunto in un decreto legge che per natura è un provvedimento legislativo che ha appunto la capacità di intervenire immediatamente. Certo, se fosse partito il confronto le cose sarebbero andate in maniera molto, molto più lunga. Detto questo, questo è, e allora 800 24 00 24, il numero verde ancora per le vostre domande. Un ascoltatore, Luca da Milano, dice: giustissimo far pagare il codice bianco, 25 euro a chi non è povero. Molte volte ho visto persone, mamme iperpromurose, affollare inutilmente il pronto soccorso. Effettivamente questo è un aspetto appunto che abbiamo toccato poco fa con la dottoressa Moccia. Per cortesia, potete spiegare a chi vi ascolta che i politici hanno, vabbè, l'assistenza medica privata completamente gratuita, chirurgia estetica compresa. Questo magari è un tema che invece riguarda la questione dei cosiddetti costi della politica, che non ci interessa affrontare questa mattina. Ascolterei altri amici che ci seguono da casa. Antonio da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Spero di essere chiaro, perché sono un po' emozionato. Allora, io sono favorevole all'introduzione del codice, del pagamento del codice bianco nel pronto soccorso. Sì. Parlo un po' da addetto al settore, no? Perché, almeno dalle nostre parti, la sanità sta diventando una cosa impressionante. Cioè, sembra tutto dovuto, tutto deve essere gratuito, e non si riesce a barcamenarsi da questo senso di Antonio, mi scusi, per caso ha la radio accesa vicino? Perché fa un eco fastidiosissimo che forse lei non se ne rende conto, ma noi lo sentiamo come se fosse nell'oltretomba in questo momento a farci il suo intervento. La radio accesa? Ecco, se la può abbassare, grazie, così la sentiamo meglio. No, non ho la radio accesa. Ah, non ha la radio accesa, vabbè, allora forse è un problema di telefono. Prego, continui pure. Probabilmente sì. Io trovo assurdo che arrivino certe persone in pronto soccorso con delle cose che potrebbero essere risolte molto prima e non pagano assolutamente niente. È una cosa che non dovrebbe esistere. È questo che il codice bianco, secondo me, va pagato, ma va capito a chi va fatto pagare veramente. Insomma, allora speriamo che almeno questo possa servire a sfoltire le stanze dei pronto soccorsi, appunto, come si dice, al plurale, chissà se è corretto il modo in cui l'ho detto, e quindi speriamo di non vedere più scene alla IAR televisive. Comunque adesso non credo che poi uno al pronto soccorso ci vada volentieri a perdere ore e ore di tempo, perché molto spesso non è che abbiamo delle strutture piccole come quelle dei piccoli paesi, dei piccoli ospedali. Molto spesso, insomma, in pronto soccorso si fa anticamera anche che dura delle ore, e io chiaro che spero che magari per una sciocchezza, una piccola ferita, uno non abbia voglia di perdere tempo, stare lì le ore, e quindi magari il 25 euro serve anche a scoraggiare questi comportamenti. Detto questo, non ritengo neanche che sia sempre così. Prima di ascoltare altri ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde che vi ripermette appunto di prenotare le vostre osservazioni sul tema di questa mattina, sul quale peraltro non c'è molto da dire. 10 euro il super ticket appunto sulle prestazioni specialistiche da applicare in aggiunta ai ticket già esistenti, 25 euro per i codici bianchi di pronto soccorso, una situazione ancora molto variegata in tutte le regioni d'Italia, per chi ha deciso di dare immediata applicazione e chi invece vorrebbe non scaricare questi costi aggiuntivi sui cittadini. E allora è proprio di questo che stiamo parlando, di una situazione ancora molto confusa. Teresina dalla Sardegna, buongiorno, da dove ci chiama esattamente? Buongiorno, da Carbonia. Da Carbonia, ci dica. Volevo segnalare una cosa, scopro che qua in Sardegna noi i 10 euro in più di super ticket praticamente li paghiamo già da un pezzo, paghiamo 46,15 e quindi adesso ci faranno pagare 56,15. Da quello che capisco, Teresina, la Sardegna è una di quelle regioni che sta valutando come non applicare, come non scaricarvi il super ticket. Sì. Ok, però devono trovare il modo di risorse per coprire questi 10 euro che noi già paghiamo. Infatti. E poi per quanto riguarda invece il pronto soccorso, i 25 euro che poi dovrebbero pagare chi paga il ticket in ogni caso, quindi i poveri non dovrebbero pagare un bel niente, tutto sommato, anche se devono sempre scaricare sui malati i maggiori costi che possiamo dire anche della politica, insomma è ora di finirla, che taglino lì prima, poi vediamo, se ne mancano ancora cominciamo a scendere, non cominciamo dai 1200, dai 1400 euro oppure dai malati come ben sa Teresina, questo è un nervo scoperto del dibattito attuale, certo. Teresina, che dirle, capisco la frustrazione, si tenta di far cassa nella maniera, mi viene da dire, più facile possibile, mi permetto di utilizzare questo termine, forse non è neanche quello corretto, è come fare l'applicazione della nuova imposta di bollo sui conti titoli, si riesce ad incassare immediatamente appunto e quindi chiaramente a ridare un minimo di sospiro alle casse dello Stato. Detto questo, la situazione sarda, ho detto correttamente, Roberto, Turno è una di quelle regioni appunto che ancora attende di capire che strada intraprendere, che percorso poter fare, visto che questo super ticket già lo aveva, tra l'altro ci segnalava l'ascoltatrice. Hai detto bene, molto bene. Tra l'altro parli con un sardo, oltre all'ascoltatrice. Questo non me l'avevi mai detto. Sono trapiantato a Roma. Quindi sei sensibile, insomma, al malessere. Pure questo della Sardegna è un problema che l'economia dovrà risolvere, dovrà sciogliere. Perché? Perché sarebbe un'assurdità. Che veramente, come spiegava Teresina, cioè, già lo pagano, che fai, gli raddoppi. Fatto sta che, guardo qui le tabelle di questi famosi 381 milioni che le regioni dovrebbero rimborsare, cioè dovrebbero reperire in proprio, la Sardegna dovrebbe recuperare 10 milioni e mezzo di qui alla fine dell'anno. Ecco, io mi auguro naturalmente che questo non aggravi ancora sulle però tale, insomma la possibilità che questi 46 euro possano diventare 56 per certi redditi, la nostra ascoltatrice ha dei timori fondati. Io la vedo teoricamente fondato, mi auguro che concretamente ciò non accada, perché insomma sarebbe proprio un disastro. E infatti. Ma aggiungerei un'altra cosa, io proprio molto breve perché i tempi sono strettissimi. Uno dei nodi grandissimi è quello del vero fai da te che c'è sulle esenzioni in Italia. Ah, spiegaci. Da una regione all'altra ci sono dei criteri estremamente diversificati. Quindi ecco, ci sono delle regioni molto larghe di maglia e altre invece molto con dei requisiti più stringenti, sì. Certo. E aggiungerei ancora, in quanto a pagamento dei ticket in genere, di tutti i ticket che ci sono, le regioni del sud, soprattutto quelle sotto piano di rientro, sono ormai sovraccariche, con di più che pagano le super addizionali IRPEF e IRAP. Sì. Ecco, questo non è un sistema che in questo modo non può reggere, cioè che federalismo può essere questo? Noi abbiamo scritto federalismo sì. Ma non spezzatino, no. Questo è il centro del tuo commento questa mattina sul Sole 24 Ore. Un altro effetto che tutta questa variegata situazione potrebbe comportare è che, come dire, a parità di prestazione e a parità attuale di costo, magari, dottoressa Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, si potrebbe verificare a questo punto un travaso molto consistente per una determinata tipologia di esami dal settore pubblico a quello privato. Allora, questa era anche una ipotesi così che lo stesso Roberto Turno faceva questa mattina sulle Sole 24 Ore. Come valutate questa possibilità? Sì. Beh, consideriamo che nel pubblico ci sono dei tempi d'attesa spesso infiniti e quindi sono già un deterrente. Se poi aggiungiamo anche il ticket, è facile a questo punto che le persone si dirigano verso il privato, almeno riescono ad avere in fretta pagando magari la stessa somma o comunque giù di lì, e quindi preferiscono poi rivolgersi a strutture private. Ma diciamo, questo non è un male in sé, perché comunque è giusto che ci si facciano anche concorrenza il pubblico e il privato. Il problema è che in questo modo il servizio sanitario pubblico effettivamente sta arretrando, quindi ci dobbiamo chiedere dove stiamo andando. Perde la sua vocazione e il suo ruolo, certamente. Allora, andiamo ad altre ascoltatrici. Questa mattina veramente molte donne che ci hanno chiamato, che evidentemente forse sono quelle che gestiscono queste tematiche all'interno della famiglia e sono molto sensibili sull'argomento. Abbiamo Laura dalla provincia di Como. Laura, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ho 74 anni, provincia di Como, sì. Erba per la precisione. Io ho prenotato un esame per una visita specialistica 40 giorni fa. Ieri mi sono trovata il balzello di 10 euro. Allora, io il ticket lo pago già normalmente. Volevo sapere se è esecutivo dal giorno della visita o della prenotazione, perché io ho prenotato 40 infatti, giorni fa. Laura, esattamente quello che io ho detto poco fa, non c'è nessun tipo di indicazione data alle regioni sul loro comportamento, che quindi sono andate un po' così come volevano, e ribadisco che peraltro, come ha detto prima il governatore della regione Lombardia Formigoni, in Lombardia il ticket, il sovraticket, il superticket si è già cominciato ad applicare, pur non avendo un'indicazione chiara di comportamento fornita da parte della regione. Dottoressa Moccia, adesso per non far ribadire le stesse cose a turno che le ha già dette all'inizio, mi pare di poter dire che la risposta a Laura è questa. Mi può ripetere bene? La domanda? Laura diceva giustamente, sì. Lei abita in provincia di Como, ha fatto una visita specialistica ieri, ha pagato il sovraticket, il superticket, però lei dice giustamente, io ho prenotato la mia visita 40 giorni fa e quindi per quale motivo devo sobbarcarmi di questo nuovo balzello, visto che comunque sono anche a cavallo? Oltretutto non c'è ancora una chiarezza di comportamento in Lombardia, perché oggi devono stabilire appunto cosa fare. Sì, direi che la risposta era quella giusta. Certo, è il fatto che la Lombardia, che è una delle regioni in cui si ha un buon livello di sanità e anche del bilancio, si faccia pagare, questo non è il massimo. Vedo che altre regioni virtuose stanno valutando il contrario. Parlo dell'Emilia, della Toscana, dell'Umbria, cioè parlo appunto di regioni che offrono un buon livello del servizio. Quindi in Lombardia si sta facendo una scelta diversa, però vediamo, ecco, come si diceva, stiamo aspettando. È iniquo il sistema ed è iniquo quello che appunto dice, racconta la signora, perché non ha molto senso. Però è l'effetto di una norma che si applica immediatamente la natura del decreto legge, però sì, magari si poteva fare, esatto, si poteva fare almeno una chiarezza tra, guardate, le visite prenotate da oggi in avanti, dal giorno appunto di entrata in vigore, quindi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della norma, da qui in avanti tutte le visite che da oggi in poi verranno prenotate pagheranno il super ticket, non quelle prenotate magari in tempo non sospetto, appunto, invece devono subire anche questa novità. Simona da Brescia. Simona. Sì, buongiorno, salve, sono Simona da Brescia, ho 40 anni. Volevo sapere, in regione Lombardia, appunto, so che è stato introdotto questo ticket, è una delle regioni che ha aderito, volevo sapere se coinvolge anche i bambini oppure se loro continuano ad essere esenti. Allora, Simona, Roberto, turno, ci puoi dare qualche delucidazione sul fatto se i regimi di esenzione siano stati toccati? Questo però non mi sembra. Non sono stati toccati, credo che, non so se l'hanno detto questa mattina Formigoni o... Mi pare di sì, mi pare che ce l'abbia detto adesso, se non me lo ricordo male. Non mi ricordo. Fino ai 14, dai 15 anni c'è l'esenzione. Quindi sostanzialmente se io volessi... Per il momento non è cambiato niente. Se io volessi sapere se ricado nella possibilità di essere gravata del super ticket, come faccio? Adesso faccio un esempio mio, visto che comunque poi il regime di esenzione, a prescindere dai bambini e gli anziani oltre una soglia di età, sono chiaramente stabilite anche sulla base delle soglie reddituali. Roberto, come faccio a saperlo? Me lo dice il medico? questo è un bel problema. Vada alla dottoressa Moccia, magari se ci può dare un'indicazione di comportamenti in questo senso. Cronicamente sui siti delle regioni ci dovrebbe essere questa indicazione. E infatti. Certo, io non credo che tutti gli italiani poi siano frequentatori stabili di internet. Ecco. No, infatti. Dottoressa Moccia, voleva aggiungere qualcosa sul tema delle esenzioni? Sì, ogni regione in realtà ha la sua normativa, però è giusto poi chiedere informazioni attraverso i siti o alle regioni stesse. Quindi, non so, in Lombardia per i codici bianchi, quella questione appunto al pronto soccorso, ci sono delle esenzioni, chi ha meno di 14 anni, chi ha più di 65 anni e una serie di altre situazioni che vengono elencate. Quindi è abbastanza chiaro, bisogna però chiedere informazioni direttamente all'assessorato. Il medico, come giustamente dice, è uno snodo importante, quindi anzi in questo momento si chiede anche ai medici uno sforzo in più per orientare i cittadini. E infatti è l'unica, come dire, indicazione di buonsenso che vi possiamo dare, che se vi siete sbucciati un'unghia evitate di andare in pronto soccorso a perdere tempo e a perdere peraltro 25 euro. Io non riesco a sentire Giovanni da Milano che ci voleva raccontare la sua esperienza. Magari Giovanni da Milano in 10 secondi ce la faccio. Lavora in ambulanza, per la sua esperienza che cosa ha riscontrato in questi giorni? Sì, pronto? Sì, Giovanni, rapidissimo che devo chiudere. Sì, no, in merito velocissimo, in merito ai codici bianchi, bisogna dire che sì, tante volte è vero, sono accessi inutili, magari esagerati, apprensione, eccetera. Tante volte però la gente lamenta la mancata assistenza, la mancata presenza dei medici di base, che se un bambino ha 39 di febbre pretende, chiede che venga portato. Esatto, magari se no non riesco a venire a casa, lo pronti e lo porti al pronto soccorso. Sì, questo è un altro tema, rimaniamo ai ticket. Comunque Giovanni, grazie lo stesso e soprattutto complimenti per il suo lavoro in ambulanza. Non riesco a sentire Daniele da Bergamo, lo saluto, così come saluto e ringrazio per essere stati con noi a spiegare una situazione comunque che ancora rimane tuttavia piuttosto confusa, Roberto Turno, collega del Sole 24 Ore, Francesca Moccia, coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato. Grazie anche a Gaia Romani e a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Con Salva Danaio ci sentiamo domani, ancora le novità della manovra e di nuovo l'ennesima nuova imposta di bollo sui conti titoli. Buona giornata.